Letture di Radio 24. A San Marino si trova l'istituto di pena meno affollato della penisola, un solo detenuto per 5 celle che riceve giornalmente i pasti da un ristorante. E pensare che a soli 150 chilometri di distanza si incontra la casa circondariale della Dozza, a Bologna. Capienza 480 persone, detenuti 1150. Ma qui è un'altra storia. Non siamo più a San Marino, ma in Italia. Nella regione a più alto tasso d'affollamento di detenuti, l'Emilia-Romagna, esiste un carcere che ospita un unico recluso. A dire il vero, il penitenziario non si trova proprio in regione e neanche in Italia, perché questa prigione speciale è il carcere dello Stato di San Marino. È qui che si trova l'istituto di pena meno affollato della penisola e forse del mondo. È stato ricavato in un'ala del convento dei Cappuccini, per cui lo Stato sammarinese paga pure l'affitto alla diocesi. Al momento l'unico detenuto è un uomo sui 30 anni, finito dietro le sbarre per una vicenda di maltrattamenti in famiglia. Per lui non c'è servizio mensa, né, come è consuetudine in molte carceri italiane, la dotazione personale di un fornello da campo con cui prepararsi i pasti per rimediare alla cattiva cucina degli istituti. Qui pranzo e cena arrivano ogni giorno da un ristorante. E così, mentre in molte carceri circondariali italiane i detenuti spesso vivono il dramma quotidiano di celle stipate, strutture fatiscenti e servizi carenti, a San Marino gli unici contatti umani del prigioniero sono con gendarmi, avvocati e con i parenti in visita. Un senso di solitudine e noia che viene mitigato dalla biblioteca, dalla palestra e dalla sala con televisione. C'è anche il cortile, per l'ora d'aria, naturalmente. Le altre 5 celle del piccolo carcere per ora sono vuote, ma le statistiche della Segreteria di Stato alla Giustizia, l'equivalente del nostro ministero, dicono che l'anno scorso i Cappuccini hanno visto il passaggio di 7 detenuti. Ancora meglio del 2009, quando il carcere della Repubblica aveva ospitato in tutto 14 persone. Ora è in arrivo un altro detenuto, che vi soggiornerà per breve tempo. Ma non sono poi così rari i periodi in cui le celle dell'ex convento risultano completamente vuote. Se dal Monte Titano ci si sposta di 150 km a ovest, sull'asse della Via Emilia, invece, si va a sbattere contro il carcere più sovraffollato d'Italia, la casa circondariale della Dozza a Bologna. 1150 detenuti rispetto a una capienza di 480. Materassi a terra nelle celle e pochi metri quadrati a disposizione di ogni recluso in alcuni reparti della struttura. Una situazione che va avanti così da 2 anni, denunciata a più riprese dai sindacati di polizia penitenziaria, dal garante dei diritti dei detenuti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il carcere con un solo detenuto, di Franco Giubilei, dalla Stampa, di giovedì 17 febbraio. Letture di Radio 24. Negli Stati Uniti d'America, un sito sostiene d'aver trovato la ricetta segreta della Coca-Cola in una foto pubblicata all'interno di un giornale del 1979. Sarà quella vera? Gli ingredienti e la ricetta per preparare la Coca-Cola sono da sempre uno dei segreti commerciali più gelosamente custoditi al mondo, nonché una delle leggende urbane più appassionanti di tutti i tempi. Perfino all'interno della stessa multinazionale di Atlanta, in Georgia, dove la ricetta è chiusa in una cassaforte sorvegliata 24 ore su 24, soltanto un ristrettissimo numero di persone può dirsi a conoscenza della verità. Ma l'alone di mistero che da ormai 125 anni circonda la famosa bevanda sta adesso per cadere. A intaccarlo, suscitando clamore insieme polemiche, è la notizia apparsa su thisamericanlife.org, sito internet dell'omonimo settimanale radiofonico USA, che si vanta di aver scoperto gli ingredienti segretissimi che fanno della Coca-Cola una bevanda leader nel mercato mondiale delle vendite. Tra questi, caffeina, zucchero, acido citrico, oltre a un numero non meglio specificato di oli essenziali, noto col nome un po' fantascientifico di Merchandise 7X, che costituisce meno dell'1% della formula. I responsabili del sito web affermano di essere entrati in possesso di una foto pubblicata dall'Atlanta Journal-Constitution il 18 febbraio 1979, in cui appare il libro su cui sarebbe stata annotata la ricetta della bevanda, o meglio, la replica esatta della ricetta originale inventata dal chimico farmaceutico John Pemberton nel 1886. Il sito ha pubblicato anche un'analoga lista di ingredienti redatta da Joe Jacobs, proprietario della leggendaria farmacia di Atlanta, dove la Coca-Cola, all'inizio un medicinale da banco per curare una enorme gamma di disturbi dal mal di testa alla nevrastenia e dall'impotenza alla dispepsia, è stata servita al primo consumatore l'8 maggio 1886. Per chiarire i dubbi sull'autenticità della scoperta, thisamericanlife.org si è rivolto allo storico Mark Pendergast, autore del libro For God, Country and Coca-Cola, il quale ha rafforzato la convinzione che l'inaspettata scoperta sia autentica. Secondo gli storici, il mistero intorno alla ricetta della bevanda è stato il frutto di una ben congegnata operazione di marketing e di pubblicità voluta da Robert W. Woodruff, astuto presidente della Coca-Cola dal 1923 al 1954. Proprio a Woodruff si deve l'invenzione dell'espressione Coca-Cola formula, trasformata ben presto in strategia mediatica e anche di tutela della proprietà intellettuale del prodotto. Non è la prima volta che in rete o sui giornali circolano notizie relative alla possibile scoperta della ricetta segreta della Coca-Cola e oggi come ieri non è sempre facile distinguere il falso dal vero. Mentre la blogsfera si arrovella sulla veridicità della scoperta, continua la crescita dei profitti della compagnia. Proprio la scorsa settimana la Coca-Cola ha riportato un incremento inaspettato nelle vendite nell'ultimo quadrimestre del 2010, espandendosi in tutti i suoi principali mercati. Avvenimento questo verificatosi per la prima volta negli ultimi 5 anni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Vaniglia e Lime. Abbiamo la ricetta segreta della Coca-Cola, di Alessandra Farkas, dal Corriere della Sera di martedì 15 febbraio. Cuochi, muratori e giardinieri. Queste sono 3 delle professioni che nel prossimo futuro faranno parte della top 10 dei mestieri più ricercati. È la top 10 delle professioni del futuro, una guida indispensabile per capire le opportunità di lavoro che si offrono alle nuove generazioni. Ai noi, non entrano ai piani alti della classifica né il medico né l'avvocato. Non ci sono l'ingegnere o l'architetto. Al primo posto troviamo cuochi e camerieri. Leader per la percentuale di aumento le badanti, ma anche vigilantes, camionisti, giardinieri, infermieri. Una caratteristica unifica i mestieri che tirano. I servizi alla persona. La sfera del benessere individuale, dell'assistenza, dell'aiuto, avrà un boom con l'invecchiamento della popolazione. Inoltre, sono le uniche attività per le quali è impossibile la delocalizzazione nei paesi emergenti. Ma sono questi i mestieri per i quali stanno studiando i nostri figli? Dipende. Come status e come remunerazione rischiano di essere al di sotto delle aspettative dei giovani. Ma attenzione, per quanto possano sembrare sottoqualificate, le professioni del futuro richiederanno comunque studi universitari. Queste proiezioni sono valide per l'America, ma è difficile non vedervi prefigurato il futuro di tutte le società occidentali, sottoposte a trend molto simili. Gli Stati Uniti sono il laboratorio d'avanguardia che l'Europa, prima o poi, finisce per imitare. La ripresa economica è iniziata prima qui che sul vecchio continente. E anche se restano 15 milioni di disoccupati da riassorbire, i segni di vitalità cominciano a moltiplicarsi sul mercato del lavoro. Da qui al 2018 l'economia americana sembra in grado di tornare a creare oltre 1 milione di nuovi posti di lavoro all'anno. Il problema sta tutto nella qualità. L'America ha appena riconquistato il primato tra i grandi esportatori d'Occidente, strappandolo alla Germania e tornando così al secondo posto mondiale dietro la Cina. Ma l'exploit del Made in USA è tutto affidato a settori industriali high-tech come la chimica fine, le macchine utensili, che hanno un avanzato livello di automazione, e assorbono poca manodopera. Già oggi quei settori tecnologici che assumono i laureati nelle cosiddette facoltà STEM, Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica, hanno 4,8 milioni di addetti, mentre i titolari di quelle lauree sono 15,7 milioni. I 2/3 devono cercarsi un posto altrove. Cresce così il fenomeno della sovraqualificazione. Già oggi sono laureati il 17% dei baristi, il 32% delle massaggiatrici, il 26% delle indossatrici. E il divario tra formazione universitaria e attività lavorativa non farà che ingigantirsi in futuro. Perché da oggi al 2018 l'economia assorbirà solo 300.000 ingegneri di software contro 500.000 baristi. I settori trainanti per le assunzioni sono tutti in quella sfera di attività ancillari, di servizio, che per tradizione non consideriamo nobili né particolarmente remunerative. Con un'operazione molto politically correct, la definizione dei mestieri viene promossa usando parafrasi lusinghiere. L'economia americana assorbirà il 18% in più di addetti alla paesaggistica degli spazi verdi. Sono giardinieri. Ci vorranno 825.651 assistenti domestici per la salute. Sono le badanti. Come effetto collaterale della crescita delle vendite su internet, ci vorranno per le consegne a domicilio 1,8 milioni di camionisti. 2 milioni e 700 mila in più saranno rappresentanti del servizio alla clientela. È il vasto esercito del telemarketing, più tutti coloro che al telefono smistano le chiamate per reclami, guasti, richieste di informazioni. Ma per selezionarli le imprese alzeranno sempre di più la barra. Ci vogliono 22 milioni di laureati in più entro il 2018. La spiegazione? Per gli uffici delle risorse umane, chiedere titoli di studio superiori semplifica la selezione, eliminando automaticamente una parte dei candidati. Inoltre la laurea dà un'infarinatura di cultura generale che sarà obbligatoria anche nei lavori più umili. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Cuochi, muratori, giardinieri. Ecco i 10 mestieri del futuro di Federico Rampini, pubblicato da Repubblica di lunedì 14 febbraio.